I giornali in edicola con la rassegna stampa. Anzi, bisognerebbe dire l'unica rassegna stampa radiofonica, l'unica esistente nel panorama radiofonico nazionale. E eccoci qua intanto con i titoli in questo lunedì 15 ottobre. Il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, apre con il nuovo fisco parte da casa e IRAP. Questo è il titolo di apertura, mentre il Corriere della Sera ha un'intervista a Roberto Formigoni. È sempre la Lega dei ribaltoni, così dice il presidente della Lombardia. La Stampa, Lombardia subito al voto. E poi Veltroni che abbandona il Parlamento. Così aprono Repubblica, Veltroni, addio al Parlamento. L'Unità, Veltroni, non mi ricandido. Pubblico, vite non più parallele. C'è la foto di Veltroni e D'Alema in prima pagina. Il Secolo XIX, l'addio di Veltroni scuote il PD. Il Messaggero apre invece su il conto delle nuove tasse. Il Giornale invece, sprecano ma non pagano, sono i debiti che hanno con le imprese le regioni italiane. Il Fatto Quotidiano invece da oggi esce anche il lunedì. Il Fatto Quotidiano del lunedì apre con una notizia di politica, l'altra politica, uno su due non voterà. È un sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani. Voglio partire da che cosa? Un articolo che trovate a pagina 8 sulla Stampa, la firma è Riccardo Arena. Ebbene sì, in Sicilia si vota, tra due settimane si vota. Cosa succede quando si vota, cari italiani? Lo sapete bene, partono le prebende. Sicilia, i soldi del governo per preparare le elezioni. Quel preparare è, tra virgolette, fondi a pioggia a chi protesta e promesse di assunzioni. Sentite cosa racconta Riccardo Arena da Palermo. Assediata dalla piazza con 5.000 traforestali, docenti della formazione che tiravano le uova contro la sede del governo regionale, la giunta siciliana vara una mini manovra che gira gli ultimi finanziamenti della legislatura in gran parte proprio ai contestatori, cioè ai forestali, ai professori che si occupano della costosissima e inefficiente macchina della formazione professionale, ai dipendenti dei teatri. A Roma si è sbloccato un tesoretto da 420 milioni, il governo Monti consente alla Sicilia di sforare il patto di stabilità e subito partono gli interventi tampone. Erano fondi da usare per lo sviluppo, ma sono stati distribuiti anche a comuni e imprese che lavorano nel campo dei rifiuti. Ci sono pure 25 milioni per gli straordinari dei regionali. Insomma, tutti avranno somme comprese tra i 150 e i 600 euro in busta paga secondo la categoria a cui il dipendente appartiene. In genere, scrive Arena, categorie che in questo momento stanno protestando. C'è anche per esempio un giallo che riguarda i soldi per i trattoristi, quelli del trattore, i trattoristi dell'ente di sviluppo agricolo. Sono 550 trattoristi, tutti privi di trattore perché i privati non considerano affatto competitivo sul mercato utilizzare i conducenti di mezzi agricoli mandati dalla regione. E il segretario della UIL, Claudio Barone, chiede che i trattoristi vengano inseriti nella soluzione riservata ai forestali. E sapete come lo dice con questa spiegazione? Sono senza stipendio, e questo è un problema. E anche se siamo a pochi giorni dalle elezioni, il governo non si può esimere dal dare loro risposte. Insomma, un insieme di fondi, racconta Riccardo Arena sulla Stampa, in Sicilia vengono distribuiti per preparare le elezioni. Questo è il dato di fatto. Noi, come detto, parleremo di questa vicenda del bimbo, di Leonardo, così è chiamato, che è stato strappato da scuola per il provvedimento che ne affida la potestà esclusiva al padre. Un milione di persone in Italia, un milione di click, questo è il titolo del Giornale a pagina 15. Leonardo è diventato già un simbolo su YouTube, il video è da tre giorni il più visto in assoluto. E su questo tema vi voglio segnalare una bella pagina che la scrittrice Susanna Tamaro affida al Corriere della Sera. Il titolo è L'amore come possesso fa sempre male. In prima pagina del Corriere Susanna Tamaro scrive così della vicenda che l'ha molto colpita. Sebbene siano passati ormai diversi giorni, non riesco a liberarmi dall'immagine del bambino di cittadella sottratto con la forza alla sua realtà quotidiana. Ricordo quando avevo più o meno la sua stessa età di essere passata attraverso una prova simile. Mio padre, creatura evanescente di cui avevo un'idea piuttosto vaga, aveva deciso di portare me e mio fratello a fare un viaggio in Jugoslavia. Già da alcuni giorni ero preda a una forte agitazione, ma quando mio padre si presentò sulla porta l'agitazione si trasformò in un vero panico. Non ne volevo sapere di partire con quel signore con il quale non avevo nessuna dimestichezza. E non avevo voglia di passare una settimana lontana dal mondo che conoscevo, in qualche modo mi rassicurava per essere lanciata in un futuro sconosciuto, fatto di squallide pensioni, di trattorie, di un'automobile trasformata in una camera a gas, essendo lui un fumatore incallito. Ricordo di aver fatto quel giorno una delle scene più apocalittiche della mia vita, singhiozzando, buttandomi per terra, attaccandomi con le unghie su qualsiasi cosa potesse offrirmi appiglio. Per un paio d'ore mio padre cercò di domarmi, ripetendomi quasi ossessivamente che mi voleva bene e che avremmo passato giorni bellissimi, ma le sue parole non sortirono nessun effetto. Alla fine i nonni decisero che era meglio lasciarmi a casa. Ecco, inizia così con un racconto anche personale, vicenda simile. Susanna Tamaro, un racconto di quella che è definita la crudeltà del possesso che ha sostituito l'amore per Leonardo. Più avanti, in questa pagina che trovate un'intera pagina, pagina 22 del Corriere della Sera, Susanna Tamaro scrive ancora: «L'amore e le relazioni affettive sembrano aver perso ormai la loro valenza di reciproca maturazione, trasformandosi nei migliori dei casi in terreno di azioni legali, nei peggiori in occasioni di sopraffazione fisica, di violenza. Non si sa più cos'è un rapporto, perché l'unico rapporto che si ha con gli altri è quello del possesso. Quel figlio è mio, quella donna è mia». E se non sono in grado di farli miei, costruendo una relazione, lo pretendo con gli avvocati, con la polizia, con una pistola, con la lama di un coltello. Miei, miei per sempre. Che terribile ottusità si nasconde nel mondo orizzontale, che paurosa povertà. Se tutto è possesso, è chiaro che le realtà più sottilmente complesse della nostra mente, del nostro cuore, facilmente rischiano di sfuggire a questa visione. Non avendo più un tribunale interiore, la nostra coscienza, ricorriamo compulsivamente ai tribunali esteriori, convinti che la loro azione saprà colmare l'ingiustizia di cui ci sentiamo vittime. Mettiamo le nostre vicende più delicate non in mano a persone che ci conoscono, ci vogliono bene, ma a professionisti che hanno un naturale interesse nel portare avanti le azioni legali. In questo tripudio di posso, voglio, devo, manca proprio quel corollario di persone ragionevoli e amiche che in un mondo meno asservito ed esasperato dall'infelicità avrebbero il compito di farci ragionare. E scrive ancora Susanna Tamaro: questo padre esasperato rischia di mettere in gioco per sempre il rapporto con suo figlio. Insomma, parleremo di questo alle 8.30. Vi invito alla lettura di questa intensa pagina di Susanna Tamaro, la trovate sul Corriere della Sera. Allora, cari ascoltatori, la notizia certamente del giorno politica è quella che riguarda Roberto Formigoni. Qua nel giro di due giorni è cambiato un po' tutto. Ai nostri microfoni venerdì diceva: non mi dimetto, andiamo avanti fino al 2015. Adesso è successo che la Lega il giorno dopo ha detto: bisogna andare alle elezioni. E quindi bisogna cambiare tutto. E quindi le elezioni ci saranno. La frase di segretario del PDL Alfano, che prima abbiamo sentito nel nostro bar di Radio 24, è stata questa: siamo contrari all'accanimento terapeutico, però Formigoni decida la data delle elezioni. Il governatore della Lombardia oggi fa un'intervista al Corriere della Sera, la trovate a pagina 3. Intervistato da Elisabetta Soglio, intanto dice: è meglio andare alle urne subito e non tra sei mesi, e poi io sarò in campo. Se entro domani, si riferisce così alla Lega, cioè se entro oggi, non cambiano la loro posizione, mi assumo il compito istituzionale che mi compete di limitare al minimo la campagna elettorale e andare al voto al più presto. Significa che do pochi giorni di tempo al Consiglio regionale perché elimini il privilegio del listino bloccato, come chiedo a voce e per iscritto da molti mesi. Come secondo atto amministrativo voglio vedere cosa succede sulla chiusura del bilancio, poi si va al voto. Dunque ora un Formigoni che sembra avere lui più fretta degli altri. E poi accusa così la Lega: sono allibito dal cambiamento di idea. Giovedì ci siamo parlati in tre, io, Alfano e Maroni, abbiamo concordato la strategia, siamo andati davanti alle telecamere, ci siamo stretti la mano e poi... E poi sono allibito e sconcertato, si conferma l'anima della Lega inaffidabile e ribaltonista. Dopo le dimissioni che farò, io sarò in campo. Non è necessario essere candidato, fare la campagna elettorale con un ruolo da definire. A me interessa rivendicare l'eccellenza del buon governo e della buona politica in questi 17 anni di Lombardia. Ribadisce poi: su Piemonte e Veneto ci saranno ripercussioni, lo ha detto anche il PDL, il segretario PDL Veneto Giorgetti, se cade la Lombardia si vota anche qui in Veneto. Noi oggi avremo il sindaco di Verona, nonché segretario della Lega in Veneto, Flavio Tosi, gli chiederemo di questo alle 8:15. Tra l'altro ci sono delle immagini che circolano su, le ha mandate credo il TG3, circolano anche in rete, di un Formigoni che era Lecco, è stato anche contestato da alcuni, da altri applaudito, ma anche spintonato, insomma un clima davvero difficile. Secondo un retroscena di Repubblica, pagina 10, lo trovate, è il protagonismo anche di Formigoni che ora irrita il Popolo della Libertà. Così ci fa perdere consensi, lasci il pirellone, questo è quello che chiede per esempio anche Maurizio Lupi, secondo però una dichiarazione non ufficiale. È inopportuno che torni in regione. Tra l'altro fa sapere Repubblica che a peggiorare le cose negli ultimi tempi nei rapporti anche tra Formigoni e Berlusconi sia stato che cosa? Il fatto che Formigoni abbia attaccato Nicole Minetti. A peggiorare le cose, scrive Repubblica, sarebbero stati i ripetuti attacchi di Formigoni a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale, oggi consigliere regionale, eletta proprio nel listino bloccato da Formigoni. Questo avrebbe creato il gelo sia dopo le inchieste ma sia anche dopo le critiche a Nicole Minetti. E da parte della Lega scrive Rodolfo Sala, siamo sempre su Repubblica, pagina 11, eccolo l'avvertimento: il PDL ha una sola possibilità di ricomporre l'alleanza con noi in vista delle politiche di aprile, cioè evitare che Formigoni faccia ciò che vuole in Lombardia. Questa sarebbe la posizione di Maroni, altrimenti sono a rischio il Friuli, l'alleanza in Friuli, Brescia e Treviso, dove si voterà ad aprile dell'anno prossimo. Insomma, il centrodestra vive questa maretta, per usare un eufemismo, i rapporti tra PDL e Lega. Dal punto di vista dell'inchiesta, certo, fa un po' scalpore sentire come si sarebbe difeso l'assessore Zambetti arrestato con l'accusa di aver comprato i voti dell''Ndrangheta. Trovate questa sua difesa nell'articolo del Corriere della Sera di Luigi Ferrarella, pagina 6. Così ho pagato per quelle elezioni. Nessun patto con i boss per comprare preferenze, giura l'assessore regionale Lombardo La Casa arrestato per voto di scambio, ma il pagamento di rimborsi spese per attività elettorali a persone che non immaginava fossero dell''Ndrangheta. Sì, questo comincia ad ammetterlo, ad anticiparlo il pidellino Domenico Zambetti di fronte alle intercettazioni. Insomma, possiamo aggiungere alla lista anche era un mafioso, ma a mia insaputa, evidentemente. Cioè Zambetti pare che abbia questa linea difensiva: sì, ho pagato per rimborsi spese per persone che si sono spese per portarmi voti, e questo è tutto lecito in una campagna elettorale, uno ti porta dei voti, fa campagna elettorale di te, poi io lo pago. Ma non sapevo che fossero dell''Ndrangheta, parlavo con loro, non sapevo che fossero dell''Ndrangheta. Questa è la linea difensiva di Zambetti. Comunque staremo a vedere come va a finire la regione Lombardia, una situazione ovviamente molto fluida, per così dire. Nel centro-sinistra invece ieri c'è stata l'inizio della campagna per le primarie di Bersani, che è andato a Bettola, vale a dire il suo paese d'origine, dove è iniziato sia la pompa di benzina, dove è iniziato a fare il distributore, il benzinaio, e ha incontrato anche le persone che lo conoscono da anni. Ma in qualche modo questa notizia, l'inizio delle primarie, almeno sui giornali, è stata offuscata da un'altra notizia, l'annuncio di Walter Veltroni, ex segretario tra l'altro del Partito Democratico, che da Fabio Fazio, che tempo che fa, ha detto: io non mi ricandiderò più in Parlamento. Renzi non c'entra nulla con questa decisione, dice Veltroni. Sta di fatto che Veltroni dice addio al Parlamento: ho deciso, non mi ricandido. Questo è il titolo a pagina 8 del Corriere della Sera. E tra l'altro ha dato comunque una stoccata lo stesso Renzi riguardo la carta d'identità, perché ha detto Veltroni: l'importante non è solo la carta d'identità. Vittorio Foa era anziano, ma era uno straordinario innovatore. Fiorito, Franco Fiorito, è giovane, ma non lo è. Insomma, Air Batman ormai è diventato l'emblema del peggio, anche nelle dichiarazioni dei politici. Sta di fatto che questa decisione di Veltroni, come scrivono tutti i giornali, pone un out-out anche a tutti quelli della cosiddetta vecchia guardia. Così, per esempio, Repubblica con Goffredo De Marchis a pagina 3, tutta la vecchia guardia ora è al bivio, i fioroni, le rosi bindi, la Melandre, che peraltro ha già annunciato mi do la filantropia, non mi candido al Parlamento, i D'Alema, cosa faranno, giusto per citarne alcuni che sono in Parlamento da anni. Ha avuto coraggio, così questa è la posizione, secondo Goffredo De Marchis, di Bersani riguardo a Walter Veltroni, una posizione che Bersani dice conosceva da 4 giorni e che ora lui ha annunciato. Sei coraggioso. Sta di fatto che gli altri che cosa faranno? Il contropiede di Walter fa finire in fuorigioco la squadra dei resistenti. Questo è il titolo del commento di Filippo Ceccarelli su Repubblica, pagina 4. Inizia così: e adesso, poveretti, con la rinuncia di Veltroni, i rottamabili rischiano di passare in via definitiva nella categoria dei rottamandi e di lì scivolare in quella pressoché terminale dei rottamaturi. Nulla ancora è chiaro, ma lo statuto del PD, già indicato su altre vicende come preclaro esempio di farraginosa e contraddittoria ambiguità, non aiuta certo il percorso. E questo anche perché con il dovuto ritardo si è scoperto che a luglio, non si dirà la chetichella, ma quasi, è stato arricchito di norme interpretative nel migliore dei casi destinate ad accrescere speranze ma anche sospetti. Insomma, cosa faranno i Blebindi, i Marini, Finocchiaro, Franceschini, Fioroni e soprattutto D'Alema, l'eterno duellante, che pure lui si voleva chiamare fuori ma poi invece si è sentito chiamato da Renzi alla lotta per la dignità della politica, del suo ruolo, eccetera, eccetera. Ecco, cosa faranno? Beh, intanto è interessante registrare che a pagina 7 dell'Unità oggi esce un annuncio a pagamento, un'intera pagina, il cui titolo è questo: basta divisioni e personalismi, parta dal sud la sfida per il governo, per noi D'Alema è punto di riferimento in questa battaglia. E beh, singolare, proprio nel giorno in cui Veltroni dice io faccio un passo indietro, ci sono centinaia e centinaia di firme dalla A di Fabrizio Abate, segretario del PD di Lucera, Ernesto Abate Russo, manager pubblico, fino alla Z di Raffaele Zuccarelli, consigliere della provincia di Cosenza. E però l'annuncio finisce così: ci scusiamo per le firme mancanti che non sono state pubblicate per motivi di spazio. E ripartiamo dal sud, questa è l'iniziativa e D'Alema per noi è il punto di riferimento in questa battaglia. Quindi vedete, altro che fare un passo indietro, D'Alema incassa un avviso a pagamento pubblico in suo sostegno sull'Unità. E invece Berlusconi, secondo i giornali, ha in mente qualcosa di rivoluzionario. Berlusconi dice fondo un nuovo partito. Questo secondo Ugo Magri sulla Stampa, pagina 5, Berlusconi sarebbe deciso ad abbandonare il Popolo della Libertà al suo destino, questo è scritto nel titolo della Stampa, potrebbe spendersi in prima persona per lanciare una nuova lista civica, un nuovo partito, puntando agli imprenditori e soprattutto a uno in particolare, non Luca Cordero di Montezemolo, ma udite udite Flavio Briatore. Berlusconi sarebbe pronto a fare una lista civica con Briatore probabile leader di una lista di imprenditori, così a pagina 5 della Stampa, ma questo retroscena è anche sul Quotidiano Nazionale, a pagina 6 la lista del Cavaliere prende forma, Briatore pronto a scendere in campo. In un momento in cui certifica il Fatto Quotidiano, che da oggi è in edicola anche il lunedì, il Fatto Quotidiano del lunedì mette in prima pagina questa indagine demoscopea che recita così: un italiano su due, si può concretizzare così, un italiano su due non voterà o non sa chi votare, no, o meglio non voterà proprio. Certo, questa è l'espressione di intenzione di voto o di non voto espressa adesso, a qualche mese di distanza. Comunque, urna vuota la trionferà, così titola pagina 2 il Fatto Quotidiano. L'idea è che un italiano su due al momento dice non voterò. L'economia. Il Repubblica oggi fa un colloquio, uno dei colloqui che ormai sono diventati quasi istituzionali, non interviste ma colloqui, di Massimo Giannini, il vice direttore. Li trovate il lunedì, questa volta col ministro del Tesoro Grilli. Grilli che difende la manovra, la legge di stabilità che da oggi sarà in discussione al Parlamento, e a questo proposito inizia l'iter parlamentare. Grilli dice: un disegno di legge, non un decreto, quindi è aperto per definizione ai contributi delle Camere, visto che accetto tutte le critiche. E quindi va bene, facciate le modifiche che si debbono fare secondo i partiti. Ma è un Grilli che difende questa manovra. Criticare la manovra è un suicidio, i tagli IRPEF danno speranza alle famiglie. Così a pagina 14 l'intervista, che inizia in prima pagina, un Grilli che intanto dice: beh, la legge di stabilità è un punto di svolta. Sono rientrato da Tokyo e l'ha difeso anche il Fondo Monetario Internazionale, è andata molto bene, da Christine Lagarde ai cinesi, tutti apprezzano gli enormi passi avanti fatti dall'Italia, a tutti è piaciuto molto la manovra che abbiamo appena varato, ma nessuno evidentemente è profeta in patria. È un Grilli che riguardo al taglio dell'IRPEF dice: abbiamo lanciato un forte segnale. Bisogna dire che questo segnale va raccolto dalla politica, dalla società, è positivo. Dopo molti mesi di sacrifici necessari, con questa manovra di parziale riduzione della pressione fiscale vogliamo cambiare le aspettative di famiglie e imprese, vogliamo ridare speranza agli italiani che con grande senso di responsabilità hanno capito cosa abbiamo rischiato e si sono rimboccati le maniche. Mi rendo conto che i toni vengono esasperati dalla campagna elettorale, ma difende Grilli sostanzialmente la legge di stabilità. Tra l'altro, su questo tema di economia, il Giornale oggi ha un'interessante apertura: sprecano ma non pagano, sono i debiti che le regioni hanno con le imprese. Le regioni, quelle che regalano soldi ai consiglieri per ostriche e champagne, titola in prima pagina il Giornale, devono alle aziende 40 miliardi. Le più insolventi, sapete chi sono? Proprio Lazio e Campania. I commercianti alzano la voce, siamo al collasso. C'è anche un'intervista a Carlo Sangalli, il presidente di Confcommercio, a pagina 2. Siamo vicini al collasso, servono regole europee e una vera spending review. Ci sono gli sfoghi di imprenditori che dicono: ecco, noi aspettiamo 40 miliardi dalle imprese e invece loro sprecano tutto così. Che dire, cari ascoltatori, qui da legge ce ne sarebbe tantissimo, io salto qua e là, ma d'altronde mi devo barcamenare come si può col tempo a disposizione. Ho solo tempo per dire che, a proposito di tempo, arriva il maltempo, l'avete sentito in tutti i modi. E ragazzi, qui pare che Cleopatra a Roma, stia arrivando Cleopatra a Roma, pare una battuta di millenni fa, ma ci sono i sacchi di sabbia distribuiti nelle foto, ho visto sacchi di sabbia, sorvegliati i monumenti, piogge forte, però le scuole sono aperte. Ma allora, se è una roba davvero così drammatica, non so, da sacchi di sabbia per difendersi da una guerra che ci porta a Cleopatra, perché le scuole sono aperte? Comunque staremo a vedere. Faccio anch'io l'appello che ha fatto la Protezione Civile, soprattutto ai cittadini di Roma: se avete delle commissioni non urgenti, oggi non fatele, non spostatevi, e spostatevi domani, in attesa del diluvio universale, evidentemente. Roma aspettando il diluvio in camicetta, occhiali da sole, così titola anche la Stampa, mentre il Messaggero: bufera sull'Italia, a Roma schierati 1300 uomini. Apre anche oggi il processo a Schettino, che sarà in aula, cioè il processo, c'è l'incidente probatorio per la tragedia della Costa, Grosseto, Schettino in aula per la maxi udienza, non potrà parlare, città blindata, alberghi esauriti, secondo il Secolo XIX, dov'è Schettino in questo momento? Forse in un agriturismo alle porte di Grosseto. Secondo Paolo Crecchi, del Secolo XIX, forse in un convento di frati, vai a saperlo. Schettino, il comandante.